La storia e la memoria di Dino Pesole. Torniamo a occuparci questa sera del cosiddetto negazionismo, prendendo spunto da una vicenda che riguarda la possibile negazione del reato di genocidio al massacro e alle deportazioni del popolo armeno compiute dall'impero ottomano a partire dal 1915. Questione di grande importanza perché, come sappiamo, la Turchia continua a negare che si sia trattato appunto di genocidio. Questione i cui risvolti giuridici e giudiziari potrebbero essere tutt'altro che irrilevanti, anche alla luce delle polemiche che sono seguite qui da noi all'eventualità di introdurre nel nostro paese il reato di negazionismo riferito al genocidio degli ebrei da parte del Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale. Ne parliamo stasera con lo storico Luigi Caiani, che è in studio con noi, che salutiamo. Bentornato, professor Caiani. Buonasera. Ripercorriamo brevemente insieme, prima di tutto, i termini della questione. L'Ufficio federale di giustizia svizzero ha deciso di ricorrere alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla vicenda di Doğu Perinçek, il politico turco condannato in Svizzera per aver negato il genocidio armeno. Partecipando ad alcune conferenze in Svizzera, l'uomo politico turco aveva in sostanza negato pubblicamente che il massacro e le deportazioni del popolo armeno, compiute dall'impero ottomano a partire dal 1915, costituissero un genocidio. In particolare, pur riconoscendo l'effettiva esistenza storica di questi avvenimenti, Perinçek si è scagliato contro la loro qualificazione come genocidio, definita una menzogna internazionale. A queste dichiarazioni aveva fatto seguito una denuncia da parte dell'Associazione Svizzera Armenia. Il procedimento penale si era concluso con una condanna definitiva ai sensi del Codice Penale Svizzero, sentenza presa in esame dall'Alto Tribunale di Strasburgo, che nel dicembre 2013 ha condannato la Svizzera per aver violato il principio della libera espressione. Con la sentenza Perinçek, la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata dunque a occuparsi di questo problematico bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione, che è sancito dall'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, e l'esigenza di reprimere l'abuso di questo diritto, in particolare con la negazione di crimini di genocidio sancito dall'articolo 17. La soluzione adottata dalla Corte di Strasburgo si discosta dalla decisione Garodi del 2003, quando al contrario si affermò la legittimità dell'incriminazione, della negazione dello sterminio del popolo ebraico. Allora, professor Caiani, quali sono le argomentazioni di questa sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Perinçek? Per capire le motivazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sono molto complesse e molto interessanti, bisogna partire proprio dall'articolo del Codice Penale svizzero sulla base del quale è stato condannato Perinçek. Perché la formulazione di questo articolo è particolarmente ambigua, particolarmente malfatta, oserei dire, e quindi si presta a interpretazioni difficili da fondare e ad abuso di diritto. Questo articolo dice che vengono puniti coloro che disconoscono, minimizzano grossolanamente o cercano di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità allo scopo di discreditare o discriminare una persona o un gruppo. Ora, in questa formulazione, come si vede, intanto non si distingue fra negazione della realtà di un evento, in questo caso un genocidio, e la negazione della sua qualificazione giuridica. Questo è l'elemento fondamentale su cui si è anche fondata la sentenza della Corte di Strasburgo, e questo è particolarmente interessante perché è un tipo di ambiguità che si ritrova anche in altre legislazioni europee. Ora, la Corte ha sostenuto che Perinçek, in primo luogo, non aveva negato la realtà del fatto, e questo già distingue il caso di cui ci interessiamo da tutti quelli che riguardano invece la negazione dello sterminio degli ebrei, perché in quel caso i negazionisti negano che gli ebrei siano stati sterminati, non si pongono neppure il problema se debba o no essere considerato. Quindi questa è una fattispecie a metà strada, in qualche modo. Sì, potremmo dire che è una fattispecie a metà strada. Il problema fondamentale è che la definizione di genocidio è particolarmente difficile, appunto, da definire, scusa il bisticcio, perché la definizione giuridica è molto ristretta. la definizione data dalle Nazioni Unite nel 49, in quanto prevede l'accertamento di una intenzione, quindi una documentazione in cui un governo dichiari di voler sterminare un certo gruppo etnico, razziale e così via, e poi esclude alcune categorie, come per esempio le categorie sociali e le categorie politiche, laddove invece gli storici usano il concetto di genocidio in maniera molto più estensiva, facendo soprattutto attenzione all'entità delle vittime. Per esempio si parla di genocidio anche nel caso dei Native Americans oppure degli aborigeni australiani. Quindi intanto c'è già questa grossa ambiguità fondamentale. Poi la Corte europea non ha riconosciuto, a differenza dei tribunali svizzeri, nelle parole di Perinček una intenzione razzista o la intenzione di incitare all'odio nei confronti degli armeni. Quindi su questa base ha deciso che la Svizzera ha commesso un abuso. A questo punto in Svizzera si è posto il problema se fare appello alla Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo oppure no. Perché si facesse appello, c'erano forti pressioni da parte di molte associazioni armene un po' in tutto il mondo, non solo quella svizzero-armena che aveva iniziato l'accusa, ma anche per esempio il Consiglio Mondiale delle Chiese e anche alcune, purtroppo dal mio punto di vista, alcune associazioni di storici che si occupano appunto di storia del genocidio, i quali a mio avviso hanno commesso l'errore di chiedere che quella che è l'opinione prevalente, cioè che si è trattato effettivamente di un genocidio, venga sancita anche a livello giuridico. Quindi gli storici da un lato invocano la loro autonomia rispetto al potere giudiziario o parlamentare e poi invece in questo caso compiono l'errore opposto. Un ultimo punto: la Corte federale svizzera che ha condannato Perinček in ultima istanza ha affermato che il fatto che si sia trattato di un genocidio è un fatto che incontra il consenso generale degli storici. Affermazione estremamente delicata, anche se la maggior parte degli storici parla appunto di genocidio, ed è proprio questo uno dei punti che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha messo in discussione. Allora, interessante questa pronuncia anche perché si inserisce nel vivace dibattito che si sta sviluppando in questi mesi in Europa attorno all'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento, in attuazione alla decisione quadro dell'Unione Europea, una norma incriminatrice che reprima i fenomeni di negazionismo. Allora, in che modo le due questioni possono interconnettersi? Ammesso e non concesso che sia opportuna, efficace, una norma che punisca qualunque tipo di negazionismo, includendo quindi anche quello dello sterminio nazista degli ebrei, molti storici e non solo storici sostengono che queste norme sono controproducenti e che i negazionisti vanno combattuti con l'insegnamento e l'informazione. Sì, lo abbiamo già detto in una precedente puntata, se non ricordo. Perché questa è una questione che sta andando avanti da parecchio tempo e di cui ancora non si vede la conclusione. Questa vicenda, secondo me, insegna una cosa molto importante, cioè se si vuol fare una legge di questo genere bisogna stare attentissimi alla sua formulazione, proprio per evitare confusioni, abusi di diritto e quindi poi una sanzione da parte di un organo internazionale che riconosce questo tipo di errore. Quindi in particolare bisogna distinguere attentamente fra negazione di un fatto storico e negazione di una sua qualunque qualificazione giuridico-storiografica, che è chiaramente sottomessa all'evoluzione della ricerca e che quindi non può essere sancita una volta per tutte da una legge o da una sentenza di un tribunale e non può essere in nessun modo oggetto di repressione penale. E come possono muoversi i paesi a livello storico, culturale, come dire, per prevenire che poi la decisione venga assunta unicamente dal punto di vista giudiziario e dunque poi ci si affidi a delle norme che come tali, come dire, possono anche essere a senso unico? È una questione molto difficile perché purtroppo a livello politico agiscono una serie di forze che sfuggono al controllo degli storici, dei giuristi, perché anche molti giuristi sono contrari. La questione purtroppo è anche aperta perché c'è una forte pressione da parte dell'Unione Europea perché queste norme vengano adottate in quanto tali, e fra l'altro dal 1 dicembre di quest'anno sarà possibile a livello europeo far partire le procedure di infrazione. Quindi anche qui sarà importante se si accetterà questo tipo di decisione quadro, e molti stati non sono affatto d'accordo, a partire dalla Gran Bretagna, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia. Quindi in Europa c'è una forte opposizione nei confronti di questa legislazione antinegazionista. Comunque quello che bisognerà cercare di fare è di trovare le formulazioni che evitino il più possibile l'abuso di diritto, che invece noi vediamo ormai già in atto, come in questo caso. Quindi anche in questo caso potremmo dire, in conclusione, che l'Europa dovrebbe battere un colpo, cioè trovare una formula in qualche modo di unità, di intenti quantomeno. Beh, l'immagine di battere un colpo mi pare un pochino inquietante. Forse sarebbe bene che l'Europa, intesa appunto come Commissione europea, fosse molto cauta nel battere questi colpi e cercasse appunto di rispettare il più possibile le culture giuridiche dei vari stati. Bene, grazie e buona serata. Buona serata, grazie.